Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, anche oggi, giorno di festa, Federico Taddia, Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Fede. Auguri. Ti sei vestito da uovo di Pasqua per le tue figlie? No, non ancora, ci siamo limitati a decorarle. Una Pasqua, una Pasquetta strana, diversa quella di quest'anno, ma siamo qui anche oggi per raccontare questo tempo diverso, cosa che facciamo da diverse settimane, pensiamo e siamo sempre più convinti che sia assolutamente necessario condividere quelli che sono emozioni, quelli che sono suggerimenti, quelle che sono storie. Radio24.it, come sempre, il nostro indirizzo, da lì potrete poi scaricare il podcast e riascoltare la puntata. Padri Eterni @radio24.it invece, se volete scriverci, se volete mandarci idee, suggerimenti, racconti, anche critiche, accettiamo di tutto. Chissà Matteo, le tue figlie ti stanno chiedendo: papà, quando potremo tornare alla vita di prima, o si stanno abituando a questa vita? Ma sai che si stanno proprio abituando, Fede, invece, nel senso, sembra quasi una dimensione che preferiscono in un certo senso per molte cose alla precedente, anche perché in questo periodo tutto diventa una piccola avventura. Dall'andare al ferramenta sperando di trovare aperto per cercare il pezzo per una piccola riparazione idraulica, all'andare a fare la spesa. Due giorni fa, quando la mamma stava per uscire bardata con mascherina e guanti e sciarpa per andare al supermercato in tutta sicurezza, le bambine l'hanno guardata e le hanno detto: mamma, sembri Batman. Insomma, quindi c'è sempre anche la maniera di sorridere, insomma, in questo periodo molto difficile è importante mantenerla. Stiamo raccontando tante testimonianze di famiglia e anche questa puntata inizia con un papà particolare, un chirurgo del Policlinico San Marco di Zingonia, siamo in provincia di Bergamo. Anche sua moglie è medico, hanno 5 figlie, stanno aspettando il sesto, quindi la loro è una quarantena davvero stretta, mi viene da dire, nel senso che sono tante persone, e sono tante persone, tra l'altro, di cui i genitori in prima linea. Diamo il benvenuto a Stefano De Carli. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Tanti auguri a chi ti ascolta. Tantissimi auguri. Ciao. Stefano, sei medico? Siamo a Bergamo, sei un papà? Sono medico. Sei papà di tanti, esatto, figli. Quanti colori, quante emozioni hanno per te, stanno avendo queste settimane? Allora, notevoli, come in realtà la vita, penso, di ogni papà, visto che questo è un bellissimo programma sui papà e io tifo molto per i papà, e nel senso che la vita del papà è già colorata ed è bella grazie, se c'è la grazia e la fortuna di avere figli. E quindi questo sempre in questi giorni, effettivamente, come dicevate anche voi, anche a casa nostra è una grande avventura, nel senso che effettivamente tra l'altro la nostra casa non è grandissima, non ci manca niente, nel senso che appunto sia io che mia moglie facciamo un bel lavoro e siamo molto fortunati, però la casa non supera i 100 metri quadrati, quindi effettivamente in testa a casa un attimino bisogna aggiustare il tiro, come sempre, non solo durante il coronavirus. Però effettivamente un po' la bella stagione ci manca andare fuori. Però è vero, cioè ci tentiamo di divertirci a casa e di passare bene il tempo, insomma, in maniera anche tentando di scandire la giornata, ecco, questo di sicuro. Stefano, tu sei un chirurgo, tua moglie è una ginecologa, avete 5 figli, con un sesto in arrivo. Il vostro comportamento con loro, conseguentemente a questo virus, visto anche il lavoro che fate, è cambiato? E se sì, come glielo avete spiegato? Allora, un po' sì, nel senso, e soprattutto all'inizissimo, che anche per noi medici è una malattia, purtroppo è stata ed è tuttora per certi versi una malattia nuova, e quindi le cose un po' sconosciute vanno anche un po' prese giustamente con le dovute cautele all'inizio. Quindi all'inizio mia moglie ci siamo molto posti il problema, anche molto concreto, se fosse il caso che io, nella fattispecie che ho avuto e ho il contatto diretto, cioè mi occupo in questo momento proprio dei pazienti affetti da coronavirus, era il caso di tornare a casa o meno. Appunto, la nostra casa non è tanto grande e quindi un isolamento in casa era impossibile, cioè avere una stanza io da solo e fare una vita a parte. In realtà poi da varie vicende, adesso non mi dilungo, però effettivamente abbiamo deciso che anche accordo, comunque sentendo, consultando altri amici medici, di tornare a casa lo stesso. Tornare a casa vuol dire certamente fermarsi sull'uscio, togliersi tutti i vestiti, non farsi abbracciare dai bambini, soprattutto il più piccolino Benedetto, che ha 2 anni, per la gioia del papà quando si torna a casa si salta addosso. E questo effettivamente è difficile spiegarlo a un bambino di 2 anni, però quest'ora non avviene più. Finita la svestizione sull'uscio, io vado nella doccia e mi lavo, per quello che può essere. L'altra cosa fondamentale è il rigore, l'attenzione sul posto di lavoro, all'ospedale, quindi mantenere tutti i dispositivi che grazie a Dio gli ospedali ci stanno dando, e ringrazio il mio ospedale, come so anche tantissimi ospedali della nostra regione, comunque della nostra nazione. Quindi queste sono le attenzioni, poi magari le suffusioni affettive, quindi baci, bacetti e abbracci un pochettino sono venuti meno, questo evidentemente. Come l'abbiamo spiegato ai bambini? I bambini, secondo me, questo penso sia l'esperienza di tanti papà, capiscono molto prima, anzi, di tanti nostri giri di parole, e quindi poi vabbè, i miei figli un po' sono abituati, hanno il papà e la mamma, che il limite, la sofferenza un po' ce la portiamo dietro, e ogni tanto anche nei nostri discorsi a casa, a cena, salta fuori, sempre in maniera ponderata, però salta fuori, quindi questo aspetto un po' c'è a casa nostra. In ogni modo loro, è un'avventura assieme, io non ho una formula, una ricetta, ve lo dico tranquillamente, però è una condivisione di un momento difficile, come penso per tantissime famiglie, non solo di papà e mamma e medico, ecco. Certo. Stefano, ma e ci sono competenze che magari hai allenato a casa nel tuo essere padre che ti tornano utili sul lavoro, magari anche uno sguardo particolare in questo momento? Ti ringrazio tantissimo, questa domanda è bellissima e ci pensavo in questi giorni, appunto, perché si pensa che il professionista, il medico è un professionista, e la famiglia non vadano di pari passo, cioè che l'uno è un po' in ciampo all'altro, quindi il vero professionista è uno che dedica tutta la sua vita a quello, o il vero papà è tutto quello che lascia da parte qualcos'altro. Certamente io sono uno, quindi il tempo, la giornata, come tutti, tanti papà lavoratori sono uno, però io penso che non sia così, e nel senso che effettivamente la forza che ti dà una famiglia, un affetto grande, che per me sono i miei figli, mia moglie, nella vita sia vincente anche sul posto di lavoro. Anche uno spirito di sacrificio ti dà, cioè uno è disposto effettivamente magari a fare anche qualche sacrificio in più, a stringere un attimo più i denti per un bene grande che si ha nella vita, che è una famiglia. Quindi la risposta è assolutamente e tantissimo sì, cioè l'affetto che io sento e da parte che nutro per i miei figli mi dà certamente un più per me nella vita anche lavorativa, e anche magari appunto nel sacrificio di dover stare magari tante ore fuori da casa o passare le notti all'ospedale o appunto... Questo sì, grazie della domanda, perché io ci credo realmente, veramente. Poi anche nella capacità di relazione, cioè vivere in una piccola comunità, poi la mia famiglia è un po' numerosa, appunto, mi fa essere anche, beh, un bel allenamento per stare magari in un reparto, quindi relazionarsi con un altro collega, con un infermiere, con anche una persona umile, perché poi i bambini sono persone anche semplici, no? Quindi magari anche con un inserviente dell'ospedale, con un pedone, con un assistente sanitario, insomma, con chiunque. Quindi questo per me è veramente un allenamento a uno spirito positivo, come quando la sera torno e mi siedo sul tappeto a giocare col trenino, come ogni papà magari fa con le macchinine o con la palla di spugna. Così anche magari la giornata lavorativa inizia con uno spirito un po' così, ma non per meriti, ma perché un po' si è allenati, dai, diciamo. Stefano, grazie davvero per aver condiviso con noi la tua storia, la tua quotidianità, la vostra quotidianità. In bocca al lupo sia sul lavoro sia alla tua bella famiglia. Grazie ancora. Grazie, ciao, buone feste. Grazie a voi, buona domenica e buona Pasqua. Ciao. Grazie, ciao. Stefano. Ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Technologic. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it. Ed eccoci qua, padri eterni. Sì, stiamo parlando di quarantena, vi stiamo dando dritte, consigli, suggerimenti, lo facciamo anche oggi in queste giornate di Pasqua, una Pasqua strana, una Pasqua che siamo costretti a stare in casa. Ma il prossimo ospite lo abbiamo avuto poco prima di Natale, con cui ci siamo appunto fatti gli auguri natalizi, quindi ci sembrava bello averlo anche qua per Pasqua, anche perché la sua quarantena è una quarantena molto particolare. Diamo il benvenuto a Max Giusti. Ciao Max. Ciao, ciao a tutti voi, ciao Fede, ciao Matteo, buona domenica, buona domenica, buona Pasqua, buona Pasqua. Io ho fatto una cosa brutta, eh? Cosa hai fatto? Non l'ho fatto il barbecue, c'ho la casettina con giardinetto piccolino, ma per fare quei quattro spiedini che abbiamo fatto ho usato il forno, non mandava ad accendere il fuoco, la cilia ma ha vinto su di me. Max, hai iniziato la quarantena che non sapevi neanche accendere un computer e so che sei diventato un esperto adesso grazie ai tuoi figli. Ragazzi, allora guarda, devo dire che c'è in casa un piccolo mostro, perché è mio figlio di 9 anni, che è praticamente Matteo, che quando io poi invece, come tutti i padri, benevolo, gli facevo usare tipo le console per i giochi, gli iPad, e mia moglie faceva no, smai, non ci devo andare, io come ogni padre appena si gira a mia moglie gioca, così potevo leggermi il Corriere dello Sport, la Gazzetta, praticamente mi sono stato un piccolo genio come tutti i ragazzi poi di quell'età, e quindi ho cominciato, mi ricordo sola, la diretta, io ho fatto una diretta, ho installato Skype, me l'ha installato lui, quella famosa piattaforma dove tutti vanno a vedere le serie televisive, me l'ha installata lui, con i televisori, sul televisore si potevano vedere, cioè c'era internet nel televisore, cioè la Smart TV, per me era la televisione, ma cioè, non sono mai andato su ciò che è Smart, sono andato a vedermi appena un minuto il mio film su Cili, l'altra volta me l'ha messo lui. Non sapevo tante cose, ecco. Ho scoperto grazie a lui la diretta, cioè la diretta Instagram, la prima volta che lo faccio, lui mi ha messo Zoom, che è una cosa terrificante. E insomma, devo dire, grazie a mio figlio, sto riuscendo a sopravvivere a questa quarantena. Ecco. Guarda Max, ti capisco benissimo, perché mia figlia in questa quarantena mi ha insegnato a fare i video su TikTok. Che sembra una cosa semplice, ma la verità è che occorre una grande capacità di sintesi. Io in cambio le ho insegnato a fare il budino al cioccolato. Mi chiedevo, secondo te questa convivenza forzata può essere anche un'occasione proprio per scambiarsi esperienze, no? Loro ci alfabetizzano digitalmente e noi magari li invitiamo, li educhiamo ad attività che richiedono maggiore concentrazione, non so, che dici? Ma guarda, io ti dico, mio figlio ama tantissimo il calcio, ma se dovessi definire il talento di mio figlio è un po' un incrocio tra Beppe Furino e Sebino Nela, per dire, cioè non è, diciamo, un giocatore dal piede vendutato, e quindi lui mi tratta malissimo, io gli sto insegnando a fare i palleggi però, e lo umilio, ti posso dire, siccome mi sento così e piccolo di fronte a lui, e tipo arrivo a 60-70, ci sto morendo ma non smetto, perché lui al quinto sbaglia e gli faccio tieni mezza sega, guarda che ti fa papà, guarda, perché lui risponda. Poi mio figlio, grazie ai sacrifici, a quello guadagnato su Rai 1 e a Discovery negli anni, si è fatto una bella scuola di madrelingua inglese, cosa che io non ho mai fatto, a stento parlo l'italiano, no? E quindi lui, anche quando parlo in inglese, l'unica cosa che sto facendo è installata da lui, c'ho l'app dove faccio il corso d'inglese. Capite? Lui mi umilia, non ti dice così papà, ti dice teacher, babà. Io dopo, quando giochiamo a calcio, gli entro male, gli faccio le entrate da dietro, giochiamo a calcio sul giardinetto, ma certe entrate, ti giuro su Dio, nemmeno Montero, guarda. Max, un'ultima domanda, insomma, sono comunque settimane di merda, lo dico io. Settimane diverse, esatto. È cambiato un po' il tuo modo di essere padre? Cioè, questa convivenza forzata comunque ti ha cambiato? Guarda, io ti dico, quando sei padre, tu Federico mi puoi capire, no? Facciamo lo stesso lavoro in due versioni diverse, perché comunque tu stai sia davanti al microfono, davanti alla telecamera, che dietro, quindi la vivi in tutti i modi, e tu sai che poi alla fine noi facciamo un lavoro così effimero, che però c'ha una concretezza, che è quella di far vivere una carriera, ma di conseguenza una famiglia, ok? Certo. quindi non ti nego che mi ha creato tante ansie in questo momento, come le ha create a tutti noi. L'unica cosa che però ho avuto la fortuna, ed è la più grande fortuna del mondo, è che alla fine la cosa più bella è che tu riesci a mettere insieme tutti i tuoi affetti, chiudere la porta e dire: oh, anche oggi è andato bene, nessuno di noi si è ammalato. È per questo che penso che questa sia una grande fortuna. Io non pensavo di essere così anche paziente, anche più, come posso dire, più riflessivo di quello che pensate. È stata più dura questa quarantena per alcuni versi di Pechino Express, ma alla fine mi ha fatto capire che questo rapporto, vedere tuo figlio che si accoccola a te, io sono fortunato perché hanno 9 anni e 7 anni e mezzo, quindi loro, grazie alla tecnologia, mio figlio adesso sta giocando giù a una console di giochi, c'ha una cuffia, sta giocando con altri 5 amici che sono in altre 5 zone di Roma. Ok? Quindi riesci comunque, per me sono sogni, io noi da ragazzini facciamo giochi molto molto più semplici. E questa roba però mi ha fatto capire che la famiglia, il buon ritiro, ti fa stare bene. Io non so se sono un padre buono o non buono, ma alla fine tutti noi genitori abbiamo la responsabilità di portare avanti il più possibile e proteggere il più possibile i nostri figli, la nostra moglie, la nostra vita. Vorrei solamente poter essere un genitore più grande per prendere ancora più figli, per prendere ancora più persone. Quello che voglio dirvi in questi giorni sono i giorni della solidarietà. Quindi noi forse aiutiamo il Mozambico e dobbiamo continuare a aiutarlo, aiutiamo qualsiasi paese del mondo e dobbiamo continuare a farlo. Adesso cerchiamo di essere più solidali anche con quelli proprio attaccati a noi, passiamo alla micro solidarietà e diamoci la mano tutti, perché alla fine poi si diventa tutti sempre più genitori. Se potessi avere 100 ragazzini mi porterei a casa tutti e 100. Quindi questo è il nostro momento e passiamoli senza slogan, senza frasi fatte, diamoci una mano tutti quanti e leviamo, perché c'è una cosa che voglio dirti: io faccio qualsiasi sacrificio, segna della Federica, qualsiasi cosa, ma tra 6 mesi, tra 2, tra 1 giorno, tra 1 anno, io rivoglio la vita che avevamo prima. Io voglio tornare a quella vita là, tra 2 anni, e non c'ho fretta, basta mi ci fare tornare, questo è il mio unico obiettivo. Penso sia proprio la speranza, il desiderio veramente di tutti. Grazie davvero a Max Zusti per essere stato con noi in questa puntata pasquale. Buone feste. Però, non sto ingrassando neanche più di tanto, capito? Quindi sto facendo. Tu sei un secco, come l'antonomasia, mi fai rosicare, sei sempre secco come un chiodo. Non sto ingrassando più di tanto, ok? Ciao, grazie. Ciao, salutaci tutti. Ciao, ragazzi, buona Pasqua a tutti. Ed eccoci qua ancora i padri eterni. Matteo, insomma, questa quarantena noi l'abbiamo vissuta settimana dopo settimana, no? Che ne dici se invece adesso ti accompagni a fare il giro del mondo? Sei pronto? Ah, non mi sembra vero, Fede, con grandissimo piacere. È proprio un giro del mondo, ma è un lungo viaggio, un viaggio che sta durando quasi 950 giorni ad oggi, ed è il viaggio che sta facendo una famiglia molto particolare, padre, madre e 3 figli piccolissimi. E tutto ciò lo potete seguire sulla pagina likemiljan.com. E in questo momento sono in Italia, sono fermi perché appunto la quarantena ha fermato anche loro, ma come hanno scritto in questi giorni, per loro è quasi sempre una quarantena, perché comunque è una convivenza forzata ogni giorno della loro vita. Con noi c'è papà Julien. Ciao Julien, benvenuto, buone feste. Ciao ragazzi, ciao, buone ciao feste anche a voi. Ciao. 950 giorni di viaggio in famiglia, che scelta di vita avete fatto? Sì. Allora, è un lungo percorso, abbiamo cominciato il 5 settembre 2017 e abbiamo fatto tantissimi paesi, ma non è il conto, non è il numero, ma sono tante avventure da raccontare con i nostri figli, è un'esperienza incredibile, davvero. E cosa vuol dire essere papà in questo modo per te? Allora, io dal mio primo figlio Teo sono stato papà a casa, dunque ho vissuto sempre la vita da papà, sempre a casa con i miei figli. Dunque, essere in viaggio, essere a casa, alla fine quello che cambia è solo il supermercato dove andare a comprare i pannolini, insomma. Non è niente di particolare. Il viaggio porta delle esperienze, delle avventure da vivere con tuo figlio, ma alla fine cambia veramente poco, davvero. Julien, voi avete dovuto interrompere il vostro viaggio, la vostra esperienza, naturalmente a causa di questa quarantena siete dovuti rientrare tutti quanti a casa, e oggi voi viaggiatori insomma siete comunque anche voi, no, costretti fra quattro mura, siete in cinque, avete con tua moglie avete tre figli piccoli. E è possibile viaggiare anche da casa, riguardando vecchie foto, inventandosi storie, facendo progetti per quando magari tutto sarà finito? Allora, io penso di sì, cioè, nel senso, il viaggio è quello che vedi dalla finestra, dunque alla fine non ti devi spostare fisicamente, cioè solo con la mente e basta. Io adesso ho una vista bellissima a Firenze e ti posso garantire che vale assolutamente tutti i tramonti che ho visto da tutte le parti del mondo. La verità è che non è. Allora, noi abbiamo avuto una situazione un po' particolare, cioè, ho due minuti per raccontare quello che è successo. Noi siamo partiti nella seconda settimana di febbraio verso Miami, abbiamo fatto Miami, gli Stati Uniti, poi un po' di Caraibi e poi siamo arrivati in Guatemala. Dovevamo fare per 5 mesi fino ad arrivare in giù nell'America Latina. Il problema è che il virus è arrivato e progressivamente la cosa ha preso tanto, ci ha bloccato, hanno chiuso le frontiere il Guatemala e ci ha un po' costretti a rimanere un po' più di due settimane bloccato in Guatemala. Poi, grazie all'ambasciata italiana e tedesca, ci hanno rimpatriata d'urgenza in 48 ore perché avevamo dei figli piccoli, il mio più piccolo ha 5 mesi, e dunque grazie a questo intervento ora siamo a Firenze, ma non era assolutamente previsto, siamo ritornati un po' meno di una settimana fa. Julien, tu hai scritto un post in questi giorni dove dai consigli di quarantena ai genitori. Sì. Ecco, e qual è il consiglio che vuoi dare ai padri che in questi giorni sono costretti a stare a casa con i loro figli? Costretti, che è anche bello stare con i propri figli, però sappiamo che è una situazione un po' forzata. Allora, io dico solo quello che faccio, non darei mai consigli perché ogni cosa è un po' a sé. Cioè, io dico che alla fine in questa situazione non bisogna prendere troppo le cose seriamente con i bambini, nel senso che devi lasciare un po' di spazio a loro, non devi prendere troppo sul serio il lavoro come lo dovevi fare al lavoro, devi vivere un pochino più leggermente. Se lo vivi un po' più leggermente, magari potrai goderti molto più facilmente quello che sta accadendo in questo momento, che non è facile, i bambini magari lo sentono tantissimo loro e noi altrettanto. Dunque non c'è il momento di rincaricare la dose, basta solo vivere un pochino e non fa male a nessuno sedersi per terra e cominciare a giocare con i bimbi. Alleggerisci talmente tanto, poi si comincia a scherzare, si può anche fare un po' di casino in casa, non fa niente, si metterà a posto quando ci sarà il tempo per riprendere una vita normale, insomma. Non bisogna avere paura del disordine in questo momento pieno di caos, sono sincero. Julien, grazie davvero per questa tua testimonianza, magari ci risentiamo quando ripartirete, insomma, per avere anche qualche cronaca live da qualche luogo del mondo. Sì, sì. Ci piacerebbe molto. LikeNewsJan.com, questo è il sito, ma sì, su tutti i social trovate questa famiglia, a Family Around the World, lo slogan che avete scelto appunto per raccontarvi. Sì. Grazie davvero e buone feste ancora. Ciao. Grazie a voi, grazie ragazzi. Ciao ciao. Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo, la pubblicità, poi ancora i Padri Eterni. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica, ogni domenica alle 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Padri Eterni. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ed eccoci qua ancora con i Padri Eterni, Federico Taddia e Matteo Bussola e Simone Cristicchi, la sua musica che ci accompagna verso il prossimo ospite. Sono le giornate di Pasqua e abbiamo il piacere di avere con noi Don Gigi Verde, che è prete fondatore della Fraternità di Romena, un posto che adesso andremo a scoprire, un posto bellissimo che tenteremo di farvelo godere anche radiofonicamente, ma non solo, perché lui da anni ha organizzato un giardino particolare, si chiama Giardino della Resurrezione, ed è un giardino dedicato ai genitori che hanno perso i figli. Ciao Don Gigi, benvenuto ai Padri Eterni. Grazie a voi, grazie per avermi invitato. Non a caso, tra l'altro, abbiamo scelto Cristicchi, con cui siete molto amici, vero? Sì, molto amici, condividiamo un bel cammino insieme e mi piace proprio perché riesce con poche parole andare al fondo, diciamo, del cuore, delle emozioni, ma anche della saggezza umana. È molto, per me, un grande amico, sì. E appunto abbiamo scelto Abbi cura di me. Secondo te, nell'educazione, nel rapporto tra padri e figli, la parola cura che significato ha? Per me è molto importante la cura, è legata molto all'attenzione, molto allo sguardo. Io credo che l'educazione è un problema davvero di sguardo, di piccole attenzioni, di poche parole, ma soprattutto di gesti. E quindi è quello che credo faccia emozionare le persone, faccia anche sentire quello che cerchi da loro, quello che hai nel cuore di loro. Don Gigi, insieme ai genitori, no, che hanno perso un figlio, tu hai creato questo giardino della resurrezione, dove ogni genitore pianta un mandorlo per il proprio figlio che non c'è più. Questa è un'immagine profondamente simbolica, mi sembra, no? Perché poi il mandorlo è un albero, è il primo albero a fare i fiori e l'ultimo a dare i frutti. Com'è possibile aiutare i genitori a sopravvivere a un figlio che non c'è più? Io sono diversi anni che seguo questo grande gruppo di genitori che hanno perso i figli, e per anni io, sbagliando, cercavo di dire: cerchiamo un senso, che è una stupidaggine, perché non puoi trovare un senso dentro quella dimensione così tragica. Quello che ho capito è che bisogna cercare di portare avanti la vita anche per questi figli, e l'altra parte di noi deve rimanere in silenzio davanti al mistero, perché non puoi fare di più. E allora il mandorlo era importante, proprio perché il primo fa il fiore e l'ultimo fa i frutti, come a dire, invece di aspettare di rivederlo, comincia a fiorire, porta avanti la vita anche per lui, non tenerlo in quella tomba. Questa è la simbologia che poi ha avuto davvero tanti genitori che hanno piantato questo mandorlo, perché quando ti muore un figlio sei come in un crinale, o ti rigetti sulla disperazione o sulla speranza. E la parola speranza in ebraico non vuol dire una certezza, vuol dire una corda, come a dire qualcuno che cerca di tirarti su e di portarti fuori da quel baratro. Gigi, ma sono solo genitori cattolici, sono solo genitori credenti quelli che vengono a piantare questi mandorli, a fare i tuoi percorsi? No, sicuramente no. Questo è un luogo molto, molto laico. È tutto intorno a una pietra romanica del 1152, costruita in tempore famis. C'è un capitello in cui c'è scritto tempore famis, vuol dire in tempo di fame, di crisi, di carestia, come quello che viviamo oggi, e riuscirono a costruire quella bellezza di questa pietra. Quindi io credo che Dio è la vita, in fondo, è religiosa di suo, anche se non ci si fossero i preti o le suore. Io credo che ognuno di noi cercherebbe qualcosa oltre sé e desidererebbe in fondo una parte di infinito da cercare. Quando uno ama e dice ti amerò per sempre, è chiaro che sembra utopia, però senti che se non dici per sempre non è amore, come se sentissi dentro il vecchio non può finire così, e credo che chiunque, se gli muore un figlio, sente che non può finire così. Quindi l'aiuto che cercate di dare alla fine, insomma, non è tanto cambiare la vita di questi genitori, che naturalmente non è possibile, ma cambiare il loro modo di vederla, insomma, aiutarli a guardare il mondo che comunque va avanti, le loro vite che comunque proseguono, a osservarle con occhi nuovi? Sì, è un problema di sguardo. Lo diceva una volta, me l'ha detto Roberto Benigni, ognuno di noi ha bisogno di uno sguardo d'amore che ti protegga, e credo che non si può cambiare alla fine molto della nostra vita, ma si può dare un senso alla nostra vita, un senso alla nostra morte, si può vedere la vita in un modo o in un altro modo, e quindi è come aiutarli ad aprire gli occhi. Quello che io provo a fare è semplicemente questo, è cercare di aiutarli ad ascoltarsi, perché oggi non si ascolta più nessuno, di alzarsi invece di lamentarsi tanto e di aprire gli occhi e guardare meglio. Quello che è il minimo che possiamo dare, dovresti dare a una persona che ami, a un figlio, alla tua donna, al tuo uomo, a un amico. Io cerco di camminare con loro, io abito molto le loro domande, quando ci incontriamo una volta al mese non do mai una risposta, non lo so perché gli è morto un figlio, non so neppure cosa possano fare, io abito le domande, quelle domande crude che loro portano. Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, Pasqua, mi manca ancora di più, da dove posso ricominciare? E io non ho risposte, cerco semplicemente di abitare quelle domande. Gigi, ci sono domande che sono più da padre che da madre? E ci sono reazioni che sono più da padre che da madre? Come sono i padri visti dal tuo sguardo? Io penso il dolore di questi genitori, del padre e della madre, è molto diverso. Perché il padre in genere è il custode, e quando ti muore un figlio sei molto arrabbiato perché avresti dovuto salvarlo, custodirlo e non ce l'hai fatta. La madre invece è il cuore di un figlio, per cui è come se quel cuore si spacca in mille pezzi. E quindi anche il dolore dell'uomo e della donna è sempre molto diverso. E quindi ognuno se lo cerca in qualche modo questo sollievo, a volte ti metti a camminare, ti metti in silenzio, cerchi di viaggiare, non lo so, ognuno ha un modo suo. Mentre ti sentivo parlare pensavo a quell'antico adagio, a quella massima, no? Che diceva che un uomo nella vita deve fare tre cose, deve fare un figlio, deve scrivere un libro, deve piantare un albero. Io ho sempre pensato che fare il figlio, no? Poi scrivere un libro vuol dire sostanzialmente scrivere la propria vita alla fine. Piantare un albero è la stessa cosa che fai tu, che fate voi, vuol dire dare un messaggio di speranza per il futuro. Forse il vero significato della parola rinascita sta proprio in questa chiave. Sì, è proprio questo. Io ho dei contadini qui intorno che continuano a piantare gli olivi anche a 83 anni. E uno si chiede, ma perché lo fanno? No? Perché lo fai? Se non riuscirai a vederne i frutti. E lo fanno proprio per quelli che verranno, lo fanno con questo amore per il futuro, per quello che succederà dopo. E le nostre ricerche sono sempre molto egocentriche, molto puntate su di noi, su riuscire a star bene noi. Ecco, io credo che è bello questo altruismo. Una delle immagini più belle che ho è di una mamma che muore questo figlio, viene e piange, e all'inizio grida, piange, e gli esce queste lacrime, e lei non ha nemmeno il coraggio di asciugarle da quanto è così aperta, così nuda, e gli arrivano alla bocca e beve queste lacrime. Io credo sia l'immagine più bella, queste lacrime che non ti vergogni di avere, ma che riesci addirittura a bere. Come a dire, nemmeno quello voglio perdere. Romena è un luogo carico di energia, no? C'è una fortissima spiritualità, un luogo bello, no? Anche se non sei cattolico, anche se non sei alla ricerca della fede, ma sei alla ricerca di te stesso, un luogo dove trovi, no? Sassi, pietre in cui aggrapparti. È un luogo che anche tu hai reso bello con la musica che fai risuonare, con le tue piccole sculture fatte con oggetti contadini. È un luogo che ti avvolge, è un luogo che ti abbraccia, ma è frequentato molto anche da famiglie. Ho visto tanti padri con i loro figli frequentare Romena. E un'ultima domanda per te, Don Gigi, e tu che figlio eri? Ma ero un figlio molto timido, molto, molto impaurito. Io sono nato con una malformazione del talidomide, per cui già avevo strutturalmente una timidezza. Quella mi ha stroncato proprio la vita. Ho fatto una grande fatica, proprio per questo io riesco, diciamo, a usare quello che c'è. Io appena sono arrivato qui era tutto diroccato, sono infilato nella cantina, ho trovato questi ferri vecchi dei contadini, vecchi mobili, tutti rotti. Non ho buttato via niente, ho fatto con quello che c'era. Io credo che la modernità, da quando è arrivata, le prime tre cose che ha ucciso sono la bellezza, la tenerezza e la gioia. Cioè, arrivata la modernità hanno costruito delle cose bruttissime, hanno ucciso la tenerezza, tutto aggressivo, violento, veloce, e hanno sostituito la parola gioia con la parola felicità e ci hanno fregato. Quello che provo a fare è non farci uccidere almeno queste tre, per cui punto molto alla bellezza, alla tenerezza con cui si accoglie la gente e alla gioia spontanea, naturale dei contadini. Grazie davvero a Don Luigi Verdi per essere stato con noi in questa puntata pasquale. Romena.it è il sito con tutte le informazioni delle attività proposte e ricordiamo appunto il giardino della resurrezione. Grazie davvero Don Gigi e una Pasqua gioiosa. Grazie a voi di cuore. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i padri. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. Diario di un giorno. Ogni domenica alle 14.30 all'interno di Passione Domenica con Cristina Carpinelli. Vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Padri Eterni. On the sofa, pride of the neighborhood. Oh, life moves this slowly. E ci avviamo verso la chiusura di questa puntata festiva. Matteo, ti porto sul tuo campo di gioco, che è quello della cucina, che sappiamo che insomma ti diletti, no? Soprattutto per il piacere delle tue figlie. E lo facciamo con quella che è la voce ufficiale di Radio 24 quando si parla di cucina. È uno degli chef stellati più famosi del nostro paese, co-conduttore di Mangia Come Parli. Diamo il benvenuto a Davide Oldani. Ciao Davide, buone feste. Ciao. Anche a voi. Ciao Davide, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, come Davide, va? Va così, no? Questa Pasqua e questa Pasquetta così particolare, dove invece, appunto, invece delle gite, invece del Pasqua con chi vuole. Chiamiamola Pasqua casalinga, chiamiamola. Davide, senti, una curiosità. Cioè, uno chef sta spesso al lavoro, no? Proprio quando gli altri riposano o fanno festa, magari, no? All'improvviso. No, diciamo, quando gli altri mangiano, lo chef lavora, diciamo così. Ok, perfetto. Ora, all'improvviso, anche tu sei sempre a casa, insomma, e la veste di compagno, di padre, soprattutto rispetto ai tuoi ritmi abituali, immagino che abbia preso il sopravvento. Ti sta servendo questo periodo? Cioè, senti di stare in qualche modo recuperando? Assolutamente sì. No, non sto recuperando. La parola di recupero vuol dire che ho perso qualcosa prima. No, perché ho sempre vissuto la mia vita nella maniera che mi facesse felice. Per cui sto valutando bene il periodo in cui sono. e devo dire che lo sto utilizzando nella maniera migliore, dove sia io che la famiglia, quindi la bambina, sia felice. Io la cosa che sto imparando, al posto di insegnare a mia figlia, sto imparando come si fa a gestire anche un po' il self-control di questo momento. Io Camilla Maria non l'ho ancora sentita dire mi sto annoiando papà, è più di un mese e mezzo che è in casa, perché è intraprendente, perché comunque segue, perché una volta scriviamo qualcosa, una volta disegniamo, una volta guarda la TV, una volta guarda un film, una volta prova a venire a leggere con me, per cui tutte queste cose fanno sì che questo momento diventi veramente oro e un tesoro. Per quello che riguarda la mia giornata invece la divido tra la casa e l'ufficio che c'è sotto, per cui vado è un po' a non andare avanti e indietro. Davide, faccio questa domanda più al padre che allo chef, ma e la largo anche agli altri padri. Sì. Cioè, tu godi di più nel fare da mangiare per tua figlia o nel fare da mangiare con tua figlia? No, io direi che la cosa che mi diverte di più è far da mangiare per mia figlia. Sì. Perché il senso del gusto che vorrei capire lo posso capire se io cucino una determinata cosa, e poi in cucina mi piace essere preciso, pronto, pulito, eccetera. Un po' di pazienza in più ci vorrebbe per Camilla Maria, però diamo tempo al tempo. Secondo me una bambina di 5 anni e mezzo è anche pericoloso metterla vicino ai fornelli, metterla vicino a un frullatore, metterla in mano vicino a dei coltelli, per cui non sai mai cosa può accadere, per cui è proprio indole mia, mi piace cucinare perché è una passione incredibile, e poi servendo il piatto, non so, l'altra sera una stupidata, ho preso, c'ho un aceto balsamico col bollino d'oro, quindi quello più vecchio, e avevo un pezzo di pecorino molto stagionato e ho fatto la prova con lei per vedere se è recettiva la stagionatura, la sapidità, l'acidità, la dolcezza del balsamico. Devo dire che la risposta è stata positiva. E poi è molto carina, mi piace, sono, poi vabbè, è logico, ognuno parla bene dei propri figli, però vederla che dice papà è buono, però io preferisco un'altra cosa, quindi voleva dire che non andava bene, però l'ha assaggiato, ha analizzato sapidità, invecchiamento, dolcezza, cos'altro, come si chiama, dolcezza del il balsamico, per cui tutte queste cose mi fa piacere che lei, a lei vengano scandite sul palato, ed è per questo motivo che mi piace. Poi sai, cucinare è un senso di donare, il mio ristorante si chiama Do, in senso di dare, per cui quando tu doni a una persona e soprattutto doni a tuo figlio, secondo me affronti diversamente anche la vita, cioè essere altruisti, dare alle persone è meglio che ricevere, per cui io cucino e quando cucino sento che do tutto me stesso nel piatto. Ci potresti dare un consiglio da chef ai padri, proprio visto che capita più spesso del solito magari a loro di andare a fare la spesa in questo periodo, su come fare una spesa intelligente, su quali alimenti puntare di più per uscire di casa il meno possibile? Allora, dispense di lunga conservazione possono essere insaccati piuttosto che pasta secca, piuttosto che formaggi con lunga scadenza, quindi queste cose ci garantiscono un po' di più il quotidiano. Poi sul fresco ci si deve organizzare in maniera tale che si prenda una materia prima fresca, buona, nel senso non già appassita quando uno la compra, che almeno alla temperatura di 5-6 gradi in frigorifero resiste. Però la cosa più importante che posso dire ai padri che vanno a comprare è, io dico sempre, pensare prima di comprare e pesare prima di cucinare. Questo è fondamentale, proprio per evitare scarti, ma soprattutto se dovessero decidere di andare a fare la spesa, di andare a stomaco pieno. Perché nel momento in cui uno si presenta al supermercato con lo stomaco o che ha fame, si rende conto che compra 10 volte di più, poi arriva a casa e dice cazzo, quanti soldi buttato via, questa cosa mi serve, no, non mi serve quest'altra, per cui è bene andare quando si è sazi, a mente sana, farsi un budget di partenza, perché un padre può anche ragionare dicendo voglio spendere 5 euro, 8 euro, 10 euro a persona o 15 euro per la famiglia quotidiano, per cui uno fa uno più uno quando è davanti al bancone del prosciutto, del carne, quello pesce, quello che è, fa due conti e in base a quello riesce ad avere anche una economia applicata alla famiglia. Molte persone vengono rilassate dalla cucina, per cui va bene, però se mi permettete faccio un altro appunto, che è quello che non è che in questo periodo tutto il tempo vada passato in cucina e poi magari mangiare, perché sennò diventa controproducente. Il cibo deve esserci, deve essere il nostro amico, per cui se dobbiamo prenderlo col criterio giusto, per cui adesso divertiamoci un po' in cucina, usiamo la testa nel fare le ricette, quindi per non sprecare, per pesare tutto, come dicevo, come dico sempre ai miei ragazzi nella cucina, il fatto di pesare vuol dire meccanizzare la cucina, rendendola comunque, tenendola artigianale, per cui pesando si crea un piatto, si creano piatti giusti per le persone che si servono, e soprattutto in questo periodo non si creano sprechi, perché sappiamo tutti quanti che bisogna essere accorti nel fare una spesa intelligente, cioè andare una volta alla settimana, non di più, farla pensando a una dispensa che sia dilatata un po' più nel tempo, con la materia prima che possiamo conservare in dispensa piuttosto che quella fresca in frigorifero, per cui tutti questi accorgimenti ci devono aiutare a far apprezzare ancora di più la cucina. La cucina in questo momento ci rilassa, però ripeto, ci sono tanti, io sto vedendo anche su me stesso, tante motivazioni per poter stare in casa e nel limite possibile essere anche non annoiarsi. Quindi cucina, direi magari una cultura sui libri della cucina o su internet della cucina, se voglio stare nell'ambito, per cui io direi di affrontare il tema cucina in questa maniera. Poi se devo consigliare un piatto per il giorno di Pasqua, anche qui assecondando il periodo, io direi che si possa fare con un qualcosa che abbiamo nella nostra dispensa. Magari andiamo sul classico, una pasta corta, cucinata anziché il metodo classico di tanta acqua e abbondante acqua e pasta, dove poi scoliamo, facciamo una pasta dove mettiamo nella padella nuda e cruda senza acqua la nostra mezza manica, la copriamo a filo di acqua, la cuociamo come se fosse un riso, quindi aggiungendo acqua piano piano, e alla fine avremo una pasta con tutte le sue proprietà, perché non vengono scolate, avremo una salsa già succulenta perché è addensata dall'amido della pasta, e poi lì ci giochiamo qualcosa come piselli, fave, asparagi, germogli, insomma tutti quei prodotti che in teoria, acquistando il fresco adesso, una volta a settimana non di più, dovremmo avere in frigorifero. Davide, grazie davvero per tutti i tuoi consigli, grazie davvero anche per aver condiviso con noi la tua quotidianità. Buoni giorni di festa e buona cucina, come sempre. Anche a voi, buona festa a tutti, e stay safe, siamo in casa. Sempre, grazie, ciao. Grazie Davide, ciao. Ciao, auguri, ciao. Termina qua questa puntata dei Padri Eterni, grazie come sempre a tutta la squadra di Radio 24, a Daniele Di Trani che con noi ha scritto la puntata, un grazie a Radio Immaginaria per il supporto tecnico anche oggi, grazie a Matteo Bussola come sempre, buona Pasqua e buona Pasquetta. Anche a te Fede, buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti. Radio24.it il nostro sito, l'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao! We'll be right back.